Il calo dei prezzi è sicuramente provocato da un sistema marcio che va distrutto e ricostruito. Come si dice, no, per ricostruire bisogna distruggere e quindi in realtà bisogna rivedere un po' le carte in tavola. Sicuramente i pastori con questa protesta rivendicano un giusto prezzo del latte che in questo momento è assolutamente sotto i costi di produzione e vogliono rivedere le regole, vogliono tornare ad essere proprietari del loro prodotto principale che è il latte ovino. Ci vuole dare anche qualche numero sulla produzione, quindi com'era prima la situazione, di quanto appunto è sceso il prezzo del latte. In realtà la lotta per il prezzo del latte è una lotta atavica, è un continuo saliscendi di questo prezzo. Certo è che quest'anno è veramente un delirio totale perché in realtà è anche poco meno di 60 centesimi. In realtà questo prezzo, come già ho detto, non copre assolutamente i costi di produzione, non c'è un minimo di margine di guadagno, quindi in questo continuo saliscendi si arriva a situazioni come queste dove le aziende ovviamente non riescono più a stare a galla, e il problema è che ovviamente questo altalenante prezzo del latte non è mai regolamentato in nessun modo. Anzi, se c'erano e ci sono dei consorzi o degli enti preposti per tutelare il mercato e i prodotti che si fanno attraverso questo latte, questi enti, questi consorzi non hanno mai funzionato, anzi hanno fatto un disastro. Quindi come stanno protestando i pastori sardi? Diciamo che il web ne è pieno perché in questo caso il web è stata un po' la casa di risonanza delle proteste dei pastori che preferiscono versare il latte delle loro pecore, che ovviamente continuano a mungere perché non è che le pecore non vengono munte, perché non sarebbe possibile, quindi continuano a mungere le greggi, però il latte anziché essere versato all'industriale in generale trasformazione viene versato nelle strade, tutt'al più viene trasformato direttamente dai pastori stessi in formaggio che verrà poi venduto, regalato, alcuni hanno scelto la beneficenza e quindi si scelgono questi canali. Di sicuro in questo momento, per dirla in soldoni, i rubinetti sono stati chiusi verso i trasformatori. Lei crede che l'importazione del latte dall'estero, possa influire in questo processo? Può influire? Assolutamente, i nostri porti sardi sono un colabrodo non solo per il latte ma per generi alimentari di diverso tipo, per esempio le carni, e questo è in generale lo stesso uno problema del comparto, però in realtà è anche il sistema interno qua che va rivisto, che va rivalutato, e devono essere i pastori a dire qual è il prezzo del loro prodotto. Come stanno rispondendo le autorità a queste proteste? Quali autorità? Dico, oggi c'era ad esempio il ministro delle politiche agricole e del turismo Centinaio e il presidente del Consiglio Conte in Sardegna. So che sono arrivati, però in realtà non so ancora se sono avvenuti già degli incontri, che io sappia no ancora. Sicuramente, ovviamente hanno capito che qua si sta arrivando a dei livelli altissimi di tensione sociale e quindi è compito loro intervenire immediatamente. Per ora i trasformatori non hanno fatto un passo indietro rispetto a questi famosi 60 centesimi, quindi staremo a vedere, insomma. Per ora si continua ad oltranza con la protesta. Cosa vi aspettate da questo incontro? Cosa vogliono ottenere i pastori sardi? I pastori sardi vogliono regole definitive, vogliono che la situazione sia, non vogliono operare sulla contingenza, ma vogliono operare adesso e per il futuro. Bisogna ristabilire le regole, bisogna ristabilire il sistema, bisogna ripartire da zero, perché non si arrivi più a stagionalità come queste che rischiano di far chiudere tutte le aziende.